Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il branco di cani randagi colpisce ancora nel ragusano, ferita gravemente una giovane turista tedesca. Le autorità invitano la popolazione a non uscire di casa. Nel pomeriggio l'incontro Berlusconi-Marcegaglia sulla crisi. Il governatore di Banca Italia Draghi dice la recessione continuerà. No ad ingerenze politico-amministrative sul credito. Obama blocca il super bonus per i manager di AIG, ma in Italia succede il contrario. Inammissibile infatti l'emendamento della Lega che voleva mettere un tetto agli stipendi dei dirigenti. La prima volta di Benedetto XVI in Africa. L'epidemia di AIDS, ha detto il Papa, non si può superare con la distribuzione di preservativi, che anzi aumentano i problemi. Operazione antiassenteismo a Portici, nel Napoletano. 36 dipendenti del comune sono finiti agli arresti domiciliari. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E da Alessio Maurizi. Torna l'allarme per il branco di cani randagi vicino Modica, nel Ragusano. Lo avete sentito dai nostri titoli. Vi ricordiamo, domenica erano stati aggrediti due bambini, uno di loro purtroppo è morto e tra l'altro oggi appunto ci saranno proprio i funerali. E oggi gli animali sono tornati ad aggredire, ad attaccare una donna nella stessa zona tra l'altro dove erano successi i precedenti episodi. In collegamento proprio con la Sicilia, Letizia Carrara. Buongiorno, ecco gli aggiornamenti sull'aggressione di questa mattina. La ragazza si trova già ricoverata a Catania, trasferita in elicottero. Le sue condizioni sono ritenute dai sanitari molto gravi e non è ancora scongiurato il pericolo di vita. Il litorale tra Pisciotto e San Pieri, intanto, dove fino a poche ore fa vi erano numerosi roulotte con turisti stranieri, è stato già evacuato e i residenti sono stati invitati a rimanere in casa. Gli investigatori stanno inoltre cercando di rintracciare i genitori della ferita. Intanto, a conclusione del vertice delle 10 in prefettura è scattato il provvedimento del prefetto. La cattura degli animali dovrà avvenire nel rispetto delle leggi, ma verranno abbattuti i cani randagi ritenuti pericolosi. Infatti è scattato l'emergenza di carattere appunto di ordine pubblico. Sono stati già uccisi due randagi che avevano aggredito due carabinieri. Da questa mattina sul posto ci sono gli specialisti del Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, stanno per arrivare altri militari. Ci sono anche gli esperti armati con fucile capsula al sennifero per sedare e catturare gli animali, mentre i veterinari stanno piazzando delle esche in tutta la zona. Infine vi restituisco la linea, domani mattina verrà interrogato Virgilio Giglio, l'uomo accusato di concorso in omicidio colposo per aver violato i doveri della custodia giudiziale. La sua abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre la procura ha chiesto la convalida dell'arresto. Grazie a Letizia Carrara, collegata con noi da Catania. Infatti lo ricordiamo, questi cani, una cinquantina di cani in tutto, facevano parte di una canile, erano stati appunto affidati all'uomo che poi avete sentito essere stato arrestato. E ora parliamo della crisi. Oggi audizione importante del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi alla Camera. Draghi ha detto la recessione durerà ancora almeno per il 2009 e poi è intervenuto sulla questione del rapporto tra governo e prefetti probabilmente e le banche, il credito. Ce ne parla Paola Cavadi. Sì, buongiorno. Il governatore della Banca d'Italia, come avete anticipato, ha ribadito la sua posizione in merito al ruolo che avranno i prefetti nel controllare la concessione dei crediti alle imprese. Il governatore ha chiesto chiaramente che venga evitata ogni interferenza politico-amministrativa nei criteri di valutazione sull'erogazione dei prestiti. È essenziale, ha detto Draghi, che non si sconfini in un ruolo di pressione sulle banche, che spinga ad allentare il rispetto dei criteri di sana e prudente gestione nella selezione della clientela. Per quanto riguarda l'Italia, poi il governatore ha snocciolato dati non confortanti e che confermano gli scenari di recessione per tutto l'anno in corso. Ma sentiamo a questo proposito le parole del governatore della Banca d'Italia. In Italia, come nel resto dell'area, la recessione, aggravatasi a metà del 2008, dovrebbe proseguire nel corso dell'anno. Tutti gli indicatori, produzione, ordinativi, giacenze di magazzino, continuano a segnalare ritmi produttivi molto bassi. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo si contrarrebbe per la quarta volta consecutiva. È verosimile che l'intero 2009 si chiuda con un nuovo significativo calo dell'attività economica concentrato soprattutto nel settore privato. A livello livello globale, infine, per Draghi non c'è ancora sufficiente chiarezza sui bilanci delle banche più esposte ai titoli tossici. Da una parte, ha ribadito il governatore, gli interventi tempestivi dei governi e delle autorità internazionali hanno evitato il collasso, ma permane, ha concluso, un dubbio sulla reale entità delle perdite delle più grosse banche del mondo. E da me è tutto, a voi studio. Grazie Paola Cavadi. Di crisi naturalmente si parlerà oggi pomeriggio nell'incontro fra Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente degli Industriali Emma Marcegaglia. Un incontro chiarificatore, almeno queste dovrebbero essere, sono le attese, perché dopo che nel fine settimana il Presidente di Confindustria aveva fatto appello al Governo dicendo che per le imprese servono soldi veri, soldi verissimi, aveva risposto il Presidente del Consiglio, sono già stati dati, ma insomma oggi c'è questo vertice. Intanto questa mattina Marcegaglia era a Bologna. Maria Chiara Grandis, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, in attesa del vertice di questa sera a Palazzo Chigi sul fondo di garanzia da destinare alle piccole e medie imprese, incontro che si terrà fra il Premier Silvio Berlusconi e il Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia è intervenuta questa mattina alla sede di Unindustria di fronte al consiglio direttivo presieduto da Gaetano Maccaferri. Si è parlato in questo incontro di assetti contrattuali e di nuove strategie per superare la crisi. Erano presenti 150 imprenditori emiliani. Emma Marcegaglia ha ribadito che il tema del credito e della liquidità alle imprese sono fondamentali per una ripresa che auspica alla fine dell'anno. All'incontro era presente anche il ministro del welfare Maurizio Sacconi, che ha ribadito 8 miliardi di euro da destinare su base negoziale per gli ammortizzatori sociali. Alle 18 dunque l'incontro fra Emma Marcegaglia e Silvio Berlusconi, alla presenza anche del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Si parlerà di strategie anticrisi dopo che venerdì Emma Marcegaglia aveva chiesto soldi veri subito e il premier Berlusconi ha detto che saranno ben accette tutte quelle proposte che il bilancio consente. E da Bologna è tutto. Grazie Maria Chiara Grandis. Noi adesso ci spostiamo in Egitto, al Cairo, però per parlare di cose che riguardano l'Italia. Anche sì, c'è la visita del presidente del Senato Schifani, che prosegue dopo l'incontro ieri con il presidente egiziano Mubarak, oggi al sacrario di El Alamein. Elisabetta Fiorito. Accompagnato dal silenzio dentro il sacrario di El Alamein, il presidente del Senato Renato Schifani depone una corona di fiori per ricordare i caduti. L'idea di un paese che ha sacrificato migliaia di vite, dice il presidente del Senato, per difendere l'idea della patria. Il nostro è un paese pieno di valori. E poi dice: mi ha colpito di più il fatto che vi siano tante tombe ignote di tante famiglie che non hanno potuto stringere a sé i propri cari. Corona di fiori anche agli acari libici. Schifani sottolinea i buoni rapporti con la Libia. Siamo orgogliosi poi delle nostre truppe all'estero. Andremo a trovare presto i nostri soldati impegnati in missioni di pace che rischiano la vita e hanno pagato prezzi altissimi. Studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Noi ora andiamo a Portici, nel Napoletano, perché da stamattina 36 dipendenti della Comune sono agli arresti domiciliari per assenteismo. E allora ci racconta tutti i particolari in diretta da Napoli Laura Viggiano. Sì, entravano con grande ritardo in ufficio, anche con 4 ore di ritardo, pur risultando presenti grazie al fatto che qualcuno timbrava il loro cartellino. Si attribuivano così anche ore di straordinario mai fatto o marcavano il beige per poi uscire e andare a fare shopping o la spesa al supermercato, allontanandosi per lungo tempo dalla sede del comune di Portici, a volte senza neanche farvi ritorno. Grazie a 2 telecamere utilizzate nella succursale del comune del Napoletano, la polizia è riuscita a dimostrare che tra i 70 dipendenti della sede, 58 si erano organizzati per riuscire a guadagnare senza lavorare davvero. 36 di questi 58 impiegati indagati, a cui è contestato il reato di falso e anche quello di truffa, ora sono agli arresti domiciliari. Le indagini sono andate avanti per un solo mese, un tempo breve ma utile per far stimare un danno al comune di 40.000 euro. lavoro. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte agivano con grande disinvoltura, organizzate quasi come un'associazione a delinquere, ha detto il procuratore aggiunto Francesco Greco, e secondo una prassi consolidata nei metodi e nel tempo. Da Napoli è tutto. Grazie Laura Viggiano. E prima di tornare a Napoli per una notizia di tutt'altro genere, facciamo un'incursione in Francia. Notizia di pochi istanti fa: c'è uno stop del presidente francese Sarkozy a nuove tasse in questo momento di crisi. Sarkozy ha detto no a un aumento di tasse per i più ricchi, come proposto anche da alcuni parlamentari ed esponenti del suo partito. Ha detto: non sono stato eletto per aumentare le tasse. Questo Sarkozy dunque in Francia. Ma torniamo appunto a Napoli, perché ieri sera al San Carlo è stato presentato in anteprima il film su Giancarlo Siani. Un lungo commosso applauso ha salutato ieri sera l'anteprima di Forta Pace, il nuovo film di Marco Risi, per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ucciso dalla Camorra nel 1985. Davanti alle immagini l'ondata emotiva è stata forte, anche per questo il fratello di Giancarlo, Paolo Siani, aveva chiesto e ottenuto di vedere la pellicola in anticipo. Quando le luci si sono accese, la commozione era ancora forte. E Paolo Siani ricorda come fosse ieri quei quattro ultimi mesi di Giancarlo. Me li ricordo tutti, come se fosse ora. Ed era, questo film c'ha un gran pregio, rifà vivere Giancarlo com'era. Cioè Marco Risi è riuscito a fare una ricostruzione veritiera, molto veritiera. Giancarlo Siani, morto a 26 anni, lavorava per il quotidiano di Napoli Il Mattino. Non era assunto, si definiva abusivo, cioè precario, voleva fare il giornalista vero, lui diceva giornalista e non giornalista impiegato, quello che cerca le notizie senza paura di mettere il naso in territori pericolosi. Da quella sera del 23 settembre 1985 in cui venne assassinato sotto casa sua a Napoli, in via Vincenzo Romaniello, alle spalle di Piazza Leonardo, molto è cambiato in queste città, allora completamente sotto il controllo dei clan camorristici. Molto cambiato, 23 anni fa era un'altra città, è molto cambiato, devo dire. E anche il fatto che si faccia stasera questo film qui a Napoli, al San Carlo, nel Salotto Buono della città, con tutte le istituzioni presenti. Questo è un segnale, secondo me, positivo, che le istituzioni sono qui stasera a condividere con noi un lavoro che è per tutte le vittime di mafia. Sceneggiato da Marco Risi con Andrea Purgatore e Jim Carrington, Forta Pace ricostruisce gli ultimi quattro mesi della vita del cronista. Le indagini nella realtà di Torre Annunziata, regno di famiglie camorristiche in lotta fra loro, sono come un binario che porta dritto alla sua morte. Il film uscirà ufficialmente venerdì a Napoli, per poi essere distribuito nel resto d'Italia il 27 marzo. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Ancora un'aggressione di cani randagi nel Ragusano. La vittima è una turista, una giovane turista tedesca, azzannata e ferita gravemente da un branco di 8 animali mentre stava passeggiando sul lungomare. L'aggressione nella stessa zona dove domenica scorsa è stato ucciso dai cani un bambino di 10 anni. E a Modica le autorità invitano la popolazione a non uscire di casa. No a pressione di interferenze della politica sul credito, così il governatore di Banca Italia Mario Draghi interviene sul possibile impiego dei prefetti nel controllo dell'assegnazione dei crediti bancari alle imprese. La crisi durerà per tutto il 2009, dice ancora Draghi, che invita lo Stato a saldare i debiti nei confronti delle imprese, che valgono il 2,5% del PIL. Darebbe sostegno alle imprese, dice ancora Draghi, senza appesantire i conti pubblici. E intanto salta la proposta della Lega di mettere un tetto agli stipendi dei manager di banche e imprese che, in difficoltà per la crisi, beneficeranno di aiuti pubblici. Le proposte sono contenute nell'elenco degli emendamenti al decreto salva auto, considerati però inammissibili per materia. Il Papa è partito da Roma, diretto in Camerun, prima tappa del viaggio che per 7 giorni porterà il pontefice in Africa. Ed è già polemica per un'affermazione sull'AIDS. L'epidemia non si può superare con la distribuzione dei preservativi, che anzi aumentano i problemi, ha detto Benedetto XVI, che ha precisato ci vuole un rinnovo spirituale e umano della sessualità. Polizia e magistratura scoprono 36 dipendenti pubblici assenteisti al comune di Portici, nel Napoletano. Lavoravano in tutti gli uffici, da quello elettorale alla leva, passando per anagrafe e ufficio tributi, sono finiti agli arresti domiciliari. E in due operazioni in Campania e in Sicilia, i carabinieri hanno arrestato 28 presunti affiliati al clan dei Casalesi, hanno smantellato il mandamento mafioso di Trabia e Termini Imerese. Il colpo di Stato in Madagascar, il presidente Ravalomanana ha dichiarato nella notte di essere pronto a resistere e morire se i soldati ribelli tenteranno di dare l'assalto alla residenza dove si è rifugiato. Nel frattempo però, secondo quanto riferisce il capo dell'opposizione, 8 ministri hanno già deciso di lasciare il loro incarico. L'andrangheta calabrese aveva in pugno appalti e aziende a Cologno Monzese, vicino Milano. Ieri c'è stata una vasta operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia che ha portato all'arresto di 20 presunti appartenenti all'andrangheta che vivevano e facevano affari soprattutto nell'edilizia. Le decisioni strategiche ormai le cosche non le prendono più a San Luca in Calabria ma a Milano. Roberto Galullo, buongiorno. Buongiorno a voi. Così scrivi oggi sul Sole 24 Ore, dopo aver dato un'occhiata a quelli che sono i documenti della magistratura su questo caso, è così? Sì, noi oggi abbiamo pubblicato sul Sole 24 Ore alcuni stralci della relazione 2009 della Direzione Nazionale Antimafia. Segretata, si capisce bene il perché, il motivo principale è proprio il fatto che nero su bianco il sostituto procuratore nazionale antimafia Enzo Macri scrive che oramai è Milano la capitale dell''ndrangheta, non è più San Luca che storicamente è stata la capitale dell''ndrangheta per tanti anni, ma le decisioni si prendono qui, qui ci sono i capitali, qui c'è la possibilità di riciclare, qui è vicino tutto. È quindi vicino, non ci sono nord-est. Solo le operazioni, ma proprio le decisioni vengono prese a Milano. Assolutamente, ormai. Assolutamente, tanto che oramai si parla di una 'ndrangheta bis, possiamo giornalisticamente definirla, che non ha più quel cordone ombelicale che aveva una volta con l''ndrangheta calabrese, cioè la casa madre viene sicuramente rispettata, ma le decisioni vengono prese autonomamente, spesso influenzano anche le decisioni prese in Calabria. Ieri, se mi consentite una parola ancora, abbiamo assistito ad una cosa secondo me straordinaria. Due cosche che in Calabria si fanno la guerra da anni, qui a Milano andavano invece d'amore e d'accordo e sono state appunto debellate dalle forze dell'ordine nel nome degli affari per l'alta velocità, affari milionari. A proposito di affari milionari, lo sappiamo, ci sarà l'Expo a Milano. L''ndrangheta? Allora, l''ndrangheta è già posizionata, questo lo dice chiaramente la Direzione Nazionale Antimafia, mentre lo Stato sta ancora prendendo decisioni, commissario sì, commissario no, Glisenti sì, Glisenti no, la Moratti decide, la Moratti non decide, l''ndrangheta ha già deciso, ha già compiuto tre omicidi in Lombardia che sono il chiaro ed inequivocabile segno di una presa di posizione sul territorio. L''ndrangheta è già pronta a dividersi gli appalti milionari che vogliono significare soprattutto i subappalti, quindi il movimento terra, non è a caldo, non è a freddo e spesso anche delle imprese apparentemente pulite come quelle sgominate ieri ma che in realtà sono dei prestanomi dell''ndrangheta di terza generazione. Anche tu Roberto lo ricordi spesso nelle tue inchieste, ma veramente l''ndrangheta è la prima azienda criminale al mondo con 44 credo miliardi di euro stimati di fatturato? Assolutamente sì, ormai non c'è più dubbio, anche la DEA, il servizio diciamo così antidroga americano, il servizio investigativo, l'FBI, il servizio investigativo antimafia e anticriminalità americano lo mettono nero su bianco. Questo perché? Perché hanno ormai da anni stabilito un asse privilegiato e preferenziale con i narcos colombiani. La droga arriva in tutto il mondo grazie ed esclusivamente grazie all'asse tra le cosche calabresi e i narcos colombiani. 44 miliardi è una stima per difetto. Di questi 44 miliardi che sono il fatturato annuo dell''ndrangheta che non sa più dove mettere i soldi, questa è la realtà, 27 miliardi di euro sono dovuti proprio alla narcofinanza. Pensate voi quanti soldi hanno da riciclare in ogni paese, anche paesino d'Italia. Non c'è più ormai nel centro-nord un comune che possa dirsi immune dal rischio di capitali sporchi e riciclaggio dell''ndrangheta. Roberto, una domanda al volo. Nell'immaginario collettivo in genere si pensa alla mafia siciliana, dell''ndrangheta si parla meno, ma questo anche perché è l''ndrangheta più impenetrabile anche per quanto riguarda la magistratura? Assolutamente sì, la differenza enorme tra Cosa Nostra e l''ndrangheta è che l''ndrangheta vive su un ceppo familiare. Andare a rompere quel ceppo familiare, quel nucleo è difficilissimo, è quasi impossibile. Cosa Nostra no, è già diversa, già amplia il suo raggio d'azione e ha degli adepti, anzi adesso sta facendo proseliti anche tra persone che trova sul campo. Una delle cose che scriverò prossimamente, che posso anticipare ovviamente qui a Radio 24, è che Cosa Nostra, e anche questo lo traggo dalla relazione della DNA, Cosa Nostra questo lo ha capito e tornerà all'antico, cioè tornerà alle famiglie, alle famiglie proprio per fare in modo di non essere facilmente penetrata come sta accadendo attualmente. Grazie Roberto Galullo, anche perché la cronaca è di oggi, due operazioni dei carabinieri in Campania e Sicilia contro la criminalità organizzata, ancora una volta in provincia di Caserta, 28 arresti tra presunti affiliati al clan dei Casalesi. In Sicilia invece i carabinieri hanno fatto un'altra operazione, Alessandra. Sì, i carabinieri di Monreale hanno smantellato il mandamento mafioso di Trabia e le famiglie sempre mafiose di Trabia, Sciara e Termini Imerese. Allora sentiamo i dettagli di questa operazione siciliana. Era uno degli ultimi mandamenti mafiosi della provincia di Palermo a non essere stati scalfiti dalle operazioni antimafia, ma adesso con l'inchiesta Camaleonte 2 anche le famiglie mafiose di Termini Imerese, Trabia e Sciara sono state smantellate. I carabinieri hanno infatti eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di altrettanti soggetti. Sono tutti accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione. L'inchiesta scaturisce da un'articolata attività di indagine condotta dai carabinieri, iniziata nel 2004 e sino al 2008. All'alba sono stati centinaia i carabinieri impegnati nella vasta operazione antimafia, coadiuvati da unità cinofile ed eliportate. Tra dicembre dello scorso anno e gennaio, con le operazioni Perseo e Cartago, i carabinieri di Palermo hanno quasi completamente azzerato la cupola mafiosa, arrestando 115 persone e decapitando 12 dei 15 mandamenti operanti nel capoluogo regionale e nella sua provincia. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. A Dublino e dintorni molti sperano che almeno oggi San Patrizio faccia la grazia e che nel giorno appunto di questa festa il patrono aiuti l'Irlanda a dimenticare per qualche ora la crisi. Insomma, abbiamo parlato sempre di Napoli in un certo modo, adesso però scopriamo che anche da quelle parti si spera nella grazia, no? Esattamente, in questo caso non di San Gennaro ma di San Patrizio. Ci colleghiamo con Dublino, Marco Ferrando. Sì, buongiorno, buongiorno da Dublino, una Dublino nel cuore della festa. Infatti qui è da poco passato mezzogiorno ed è appena partita la grande parata che tutti gli anni tiene, come dire, tiene banco in città a Dublino. Una lunghissima parata, siamo qui in Parnell Square, prima tappa di questo lungo serpentone che poi imboccherà O'Connolly Street, quindi attraverserà il fiume Liffey, il Trinity College e poi finire nella cattedrale di San Patrizio. Come dicevate, qui in Irlanda si respira un clima di recessione, ma si spera che almeno oggi, con questa festa di San Patrizio, una festa comunque per la quale si sono spese centinaia di migliaia di euro, almeno tutti possono dimenticare e chissà magari voltare pagina. Una prima buona notizia è arrivata, si può dire, quasi dal tempo. Ci sono 15 gradi, tempo primaverile, che per questa stagione in Irlanda è veramente insolito. Un'ultima curiosità per noi italiani, uno dei protagonisti del San Patrizio di quest'anno è Giovanni Trapattoni, neo mister della nazionale di calcio irlandese, dato presente alla sfilata, non si sa ancora bene se tra i figuranti oppure in tribuna. Da Dublino è tutto, linea Milano. Grazie Marco Ferrando, ricordiamo tra l'altro che Trapattoni oggi compie 70 anni, no? Se non ricordo male. Vecchio leone, e neanche tanto vecchio. Cambiamo argomento, sono stati gli americani negli ultimi decenni a introdurre il politically correct nel linguaggio. L'Europa però vuole colmare le distanze, adesso l'allievo addirittura sta superando il maestro. Te lo lascio dire a te che succede a Bruxelles. Sì, a Bruxelles dichiara guerra al maschilismo idiomatico. Signorina Silvani! Oh, pardon, signorina Silvani in Calboni! Io? Sì. Eletta a estrarre dall'urna il nome dell'eletto, la signora Calboni, ex signorina Silvani ed ex infelice grande amore di Fantozzi. Altro che signorine, sposate o nubili, oggi siamo tutte signore. Bruxelles non permetterà più che un europarlamentare venga qualificata come Mrs. o Miss, o Madame e Mademoiselle, signora o signorina, connotazione sessista offensiva per i puristi dell'uguaglianza lessicologica. Lo stabilisce l'opuscolo Gender Neutral Language, che fa anche di più. Cassa una lista di parole che descrivono professioni, fireman, policeman, salesman, ma anche air hostess. Il suffisso S è considerato discriminatorio. Cosa ne pensa Mario Cannella, il lessicografo che cura la revisione del vocabolario Zingarelli? Intanto non è una novità, perché già il fascismo ai tempi aveva queste manie di regolamentare la lingua per decreto. Sono esempi in alcuni casi ridicoli, ma l'Unione Europea tende a farlo in tutti i campi. Credo che i nostri formaggiai sanno bene che gli arrivano indicazioni su quanto devono essere alte le piastrelle nei luoghi dove si conservano i formaggi, la discussione sulla banana che deve avere un'arcuatura di un certo tipo. Credo che occorra fare attenzione, da un lato evitare che dentro i dizionari, quindi negli articoli, nello scrivere, ci sia quello che si chiama forme di sessismo, cioè di spregio nei confronti del mondo femminile, dall'altra di evitare gli eccessi del politicamente corretto, che sono quelli che insomma nei vari campi conosciamo. Ecco, non so che successo potrà avere, probabilmente nei loro documenti sì, nella lingua nostra credo che il processo andrà avanti come sta andando avanti adesso. Ora non possiamo che attendere che Bruxelles abolisca anche l'età. Sì, ma suo marito è d'accordo, cioè lo sa. Ma noi siamo una coppia moderna, siamo larghe di vedute. Le giochi sul 27, Fantozzi. 27. Sì. Il numero dei miei anni. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, le principali notizie della giornata. Ancora un'aggressione di cani, randagi nel Ragusano. La vittima è una giovane turista tedesca azzannata e ferita gravemente da un branco di 8 animali mentre stava passeggiando sul lungomare. L'aggressione nella stessa zona dove domenica scorsa è stato ucciso dai cani un bambino di 10 anni. A Modica le autorità invitano la popolazione a non uscire di casa. No a pressione e interferenze della politica sul credito. Così il governatore di Banca Italia Mario Draghi interviene sulla possibile impiego dei prefetti nel controllo dell'assegnazione dei crediti bancari alle imprese. La crisi durerà per tutto il 2009, aggiunge Draghi, che invita lo Stato a saldare i debiti nei confronti delle imprese che valgono il 2,5% del PIL. Darebbe sostegno alle imprese senza appesantire i conti pubblici, dice ancora il governatore. E intanto salta la proposta della Lega di mettere un tetto agli stipendi dei manager di banche e imprese che in difficoltà per la crisi beneficeranno di aiuti pubblici. Le proposte sono contenute nell'elenco degli emendamenti al decreto salva auto, considerati però inammissibili per materia. Il Papa è partito da Roma diretto in Camerun, prima tappa del viaggio che per 7 giorni porterà il pontefice in Africa. Ed è già polemica per un'affermazione sull'AIDS. L'epidemia non si può superare con la distribuzione dei preservativi che anzi aumentano i problemi, ha detto Benedetto XVI, che aggiunge ci vuole un rinnovo spirituale e umano nella sessualità. Operazione anti-assenteisti. Polizia e magistratura scoprono 36 dipendenti pubblici assenteisti al comune di Portici nel napoletano. Lavoravano in tutti gli uffici, da quello elettorale alla leva. Sono finiti agli arresti domiciliari. Il colpo di Stato in Madagascar. Poco fa il presidente si è dimesso e ha consegnato il potere ai militari. Lo ha annunciato il suo portavoce. Ne parleremo fra poco alle 13.45. E riprendiamo con le notizie economiche. Abbiamo parlato dell'incontro che ci sarà oggi, l'incontro chiarificatore tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il leader degli industriali Emma Marcegaglia, dopo che Confindustria aveva chiesto soldi veri alle imprese in difficoltà. Poi ci sono anche altre notizie. Ci sono altre notizie perché la Confartigianato ha presentato oggi ai parlamentari di maggioranza e di opposizione un pacchetto di misure per sostenere appunto le piccole imprese in questo momento di crisi. E allora Andrea Viali ha intervistato il Presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini. Noi chiediamo un'attenzione diversa per rispondere alla criticità del momento, che soprattutto colpisce il sistema delle imprese e soprattutto colpisce il sistema delle piccole e medie imprese. Un'attenzione particolare per rispondere attraverso iniziative di emergenza a questa situazione di crisi incombente e anche per approfittare di questa situazione di crisi per modificare quelle storture che da sempre minano lo sviluppo e la crescita delle imprese di cui il Paese ha bisogno. Sono 38, se non sbaglio, le proposte di intervento che presentate qui oggi. Sì, riguardano 7 aree che vanno dalla fiscalità alla necessità di sostegno dal punto di vista creditizio delle imprese, alle semplificazioni, agli incentivi, e riguardano delle iniziative concrete, molto spesso a costo zero per lo Stato, che dovrebbero consentire in questa fase di emergenza di garantire il flusso di liquidità alle imprese che manca, e poi a più largo respiro appunto rimuovere gli ostacoli alla crescita. Noi riteniamo che il problema dei problemi oggi sia la difficoltà di un settore come il nostro, che ha storicamente maggiori ostacoli all'accesso al credito. Ecco, questa crisi li ha aumentati. Esiste uno strumento efficace che svolge questa attività di mediazione da decenni e che si chiamano Confidi. Attraverso il potenziamento di questo strumento che consente a un piccolo imprenditore di trattare al meglio il costo del denaro con la banca, potremmo scongiurare questa difficoltà che poi si ripercuote su tutto il resto. Questa dunque è l'intervista al presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini, e parlava di banche. A proposito di banche, lo diciamo quasi tutti i giorni, ma è la doverosa cronaca di un ribasso. L'Euribor è sceso all'1,61%, il 23esimo calo consecutivo del tasso con cui le banche misurano i prestiti tra di loro, ma anche per i nostri mutui. La notizia è un po' su tutti i giornali di oggi: Barack Obama che si è scagliato contro i super bonus ai manager del colosso delle assicurazioni AIG, che è stato salvato però con il denaro pubblico. Questa dunque è la posizione del presidente americano, ma in Italia che cosa succede? Inammissibile, così è stata considerata, ma per questioni di merito per ora, la proposta della Lega di discutere proprio un emendamento al cosiddetto decreto salva auto in questo senso. Sentiamo. Niente tetto agli stipendi dei manager. Mentre in America il presidente Obama sta tentando di bloccare i super bonus ai manager delle aziende salvate dallo Stato, in Italia si imbocca la strada opposta. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega Nord al decreto salva auto, che proponeva di mettere un limite agli stipendi dei manager di banche e imprese che in difficoltà per la crisi beneficeranno di aiuti pubblici. L'emendamento prevedeva che lo stipendio dei banchieri, i cui istituti beneficiano in maniera diretta o indiretta di aiuti anticrisi, non potesse superare i 350.000 euro annui. Un altro emendamento, considerato inammissibile, prevedeva invece che lo stipendio di chi avesse rapporti di lavoro con amministrazioni statali o enti pubblici non potesse superare lo stipendio di un parlamentare. In realtà il tetto agli stipendi non è una novità. L'ultima finanziaria firmata Romano Prodi imponeva a dipendenti pubblici, manager compresi, un limite massimo di stipendio pari a 289.000 euro annui. Ma a giugno scorso un decreto legge voluto dal governo ha congelato la norma per 3 mesi. Nel frattempo si è formato un tavolo di esperti con il compito di emanare un regolamento. Di mesi però ne sono passati 9 e del regolamento non c'è traccia. Nel frattempo anche l'emendamento della Lega è risultato inammissibile. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Giulia Crivelli, come l'hanno presa i giornali americani, l'opinione pubblica americana, appunto, questa decisione di AIG di aumentare, cioè di dare i bonus ai manager? Sicuramente con outrage, no? Quello proprio lo scandalo, la rabbia, tutta la vicenda è ritenuta talmente scandalosa quasi da suscitare una reazione automatica, cioè sembrerebbe automatico che questi bonus debbano essere negati. In realtà non è così, e adesso, oltre al fatto che Obama è stato chiamato in causa proprio per dire la sua su questa questione, il Washington Post dà voce anche ai vertici di AIG, e alcuni di loro dicono: state creando una tale campagna di odio che cominciamo a avere paura per la nostra incolumità. Adesso che noi si debba, o che gli americani debbano avere così pietà o pena per queste persone che non prenderanno il bonus oltre al regolare stipendio, è tutto da vedere. Però è anche vero che, forse un po' come sta succedendo per Madoff, si prendono dei grandi capri espiatori per sfogare tutta la rabbia e la delusione che ha colpito tantissimi risparmiatori. Giulia, abbiamo letto poco fa una dichiarazione di Sarkozy che dice che, nonostante la crisi, lui non vuole aumentare le tasse. Verrebbe dire peccato mettendosi ricchi, nei panni. Però non vuole aumentare per i ricchi. Per i ricchi, ma dico, mettendosi nei panni dell'esattore, verrebbe da dire peccato, stando a quello che dice Le Figaro oggi. Sì, è l'apertura di Le Figaro, un quotidiano che insomma è abbastanza vicino al presidente, anche se non è un quotidiano di partito, e il titolo di apertura è: il patrimonio dei francesi negli ultimi 30 anni è raddoppiato. È vero che nel 2008 è leggermente diminuito, cioè del 3%, ma il 2008 sappiamo è stato un anno molto difficile, come del resto sarà il 2009. Ciò non toglie che il valore dei beni posseduti da famiglie, aziende e Stato sfiora, prima della crisi, quindi diciamo prima di ottobre, la cifra di 12.513 miliardi di euro. Quindi insomma, e questo appunto è una cifra parecchio superiore a quella di tanti anni fa. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo ancora con te domani per la rassegna stampa internazionale. Noi adesso parliamo del viaggio di Benedetto XVI in Africa, il suo primo viaggio in questo continente, che è iniziato oggi. Saranno 7 giorni di visita in 2 paesi, il Camerun e l'Angola. L'epidemia di AIDS non si può superare con la distribuzione dei preservativi, che anzi aumentano i problemi. Lo ha detto oggi Benedetto XVI in volo verso il Camerun per il suo primo viaggio apostolico in Africa. Per il Papa serve un comportamento umano morale e corretto e una grande attenzione verso i malati. Bisogna soffrire con i sofferenti, ha detto. Parlando con i giornalisti, Ratzinger ha risposto anche ad una domanda sulla sua presunta solitudine dopo la crisi scoppiata in seguito alla revoca della scomunica ai vescovi lefebriani. Non mi sento solo in alcun modo, ha detto Benedetto XVI, ogni giorno vedo i miei collaboratori, i vescovi, e ha ricordato che proprio in questi giorni sono venuti a trovarlo anche dei suoi amici tedeschi. Il Papa ha poi lanciato un appello alla solidarietà internazionale perché non lasci sprofondare l'Africa sotto il peso della crisi economica e ha ribadito che il mondo della finanza e dell'economia devono ritrovare la centralità dell'etica. Questa crisi economica, ha osservato infatti il Papa, è un prodotto di un deficit dell'etica e ha annunciato che anche di questo parlerà nella sua prossima enciclica. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di libri. Alessandra, oggi cosa ci proponi? Allora, vi propongo l'ultimo romanzo appena uscito di Salvatore Niffoi. Molti lo ricorderanno per La vedova scalza, che 2 anni fa vinse il Campiello. Caratteristica dei libri di Niffoi è che sono scritti sempre con un linguaggio che è un mix fra l'italiano e il sardo, ma in questo caso il romanzo è quasi interamente in italiano. È la storia di un'amicizia fra due ragazzi, uno della Barbagia e l'altro che viene dal continente, come ci ha spiegato lo stesso Niffoi. Sono due mondi che si incontrano e esplodono, o meglio dire implodono. Uno è il mondo barbaricino, che è simboleggiato attraverso l'offerta del pane, il pane di Abele, il pane dell'amicizia, che è quello che si gode in compagnia, e mentre l'altro rappresenta il pane amaro, il pane fieloso del potere che si gode in onanistica solitudine. La storia è imperniata sul senso dell'amicizia perduta, ma è anche sul senso di un mondo perduto, sui vecchi valori perduti. In maniera pasoliniana c'è questa Barbagia che accoglie come un proprio figlio un ragazzo che viene da fuori, noi osiamo dire dal continente. E questo ragazzino trova il suo paradiso terrestre in Barbagia, assimila la lingua, le usanze, i costumi, e poi per la cecità o per lo strabismo del destino questo ragazzo che si chiama Nemesio va fuori a studiare e in questa realtà ci torna da furbo, ci torna da politico, ci torna con la convinzione che il nostro modo di essere barbaricini e sardi, ovvero della fare dell'amicizia uno dei pilastri portanti del nostro modo di vivere, del rispetto, della dignità e dell'onore, viene scambiato per ingenuità. La novità di questo romanzo è anche il fatto che è scritto per la maggior parte in italiano, in lingua sarda sono scritti dialoghi e solo alcune parti del libro. Come mai questa scelta? Ma io non ho pregiudizi, né politici, né religiosi né linguistici, cioè nel senso che non soffro di integralismo. Sono del parere che l'italiano si debba nutrire di nuovo della linfa locale dal punto di vista linguistico, perché altrimenti se continuiamo a nutrirci soltanto di neologismi e di forestierismi provenienti da vari paesi attraverso la musica, il cinema, la letteratura, diventiamo un McDonald's della cultura. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Il branco di cani randagi colpisce ancora nel Ragusano, ferita gravemente una giovane turista tedesca. Le autorità invitano la popolazione a non uscire di casa. Nel pomeriggio l'incontro Berlusconi-Marcegaglia sulla crisi. Il governatore di Banca Italia Draghi dice la recessione continuerà. No ad ingerenze politico-amministrative sul credito. Obama blocca il super bonus per i manager di AIG, ma in Italia succede il contrario. Inammissibile l'emendamento della Lega che voleva mettere un tetto agli stipendi dei dirigenti. La prima volta di Benedetto XVI in Africa, l'epidemia di AIDS, ha detto il Papa, non si può superare con la distribuzione dei preservativi che anzi aumentano i problemi. Il colpo di Stato in Madagascar, poco fa il presidente si è dimesso e ha consegnato il potere ai militari. E allora, lo avete appena sentito dai nostri titoli, il colpo di Stato in Madagascar, il presidente si è dimesso. Tutti gli aggiornamenti dalla redazione, Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. In Madagascar, appunto, come avete detto, il colpo di Stato è stato consumato perché il presidente in carica, Marc Ravalomanana, ha dato le dimissioni, ha firmato un'ordinanza con la quale trasferisce i suoi poteri a un direttorio militare. La notizia, annunciata da fonti diplomatiche, è stata confermata dal portavoce presidenziale che ha anche annunciato che l'ammiraglio Hippolyte Ramarozon è il nuovo capo di Stato. Le dimissioni di Ravalomanana sono l'esito dell'azione che proprio ieri l'esercito ha messo a segno per appoggiare l'opposizione guidata da Andry Rajoelina. Da ieri la capitale del Madagascar, Antananarivo, è in mano ai militari. Il presidente Ravalomanana questa mattina si trovava ancora nel suo palazzo presidenziale a una dozzina di chilometri dal centro della capitale. Ieri si era detto pronto a resistere, a morire con gli uomini della guardia presidenziale a lui fedeli, ma oggi aveva lanciato segnali di disponibilità alla trattativa, anche perché i militari avevano fatto sapere di non voler sferrare l'attacco decisivo e di aspettare le sue dimissioni. Il leader dell'opposizione, Rajoelina, ormai sicuro della vittoria, non ha raccolto l'offerta di trattativa di Ravalomanana. Questa mattina Rajoelina ha annunciato alla folla che lo festeggiava che 8 ministri legati al presidente si erano dimessi. Poco fa l'esito della vicenda con le dimissioni del presidente. Ora nella città c'è calma, ma si temono manifestazioni violente, tanto che il consolato francese ha invitato i propri connazionali residenti nella capitale a rimanere nelle loro abitazioni dopo il tramonto. E per ora è tutto. E staremo a vedere. Grazie a Paolo Piacenza. Da oggi a Milano la mostra Vite, scritto proprio V.T, Milano e la Lombardia, alla prova del terrorismo, ospite dell'Istituto Leone XIII, scusate. È una cronistoria degli anni di piombo in Italia dal 69 all'83, ma è anche un viaggio interiore che racconta l'interruzione di sogni e progetti, naturalmente da parte delle vittime del terrorismo e dei loro familiari. Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, fu una delle vittime eccellenti di quegli anni. Allora sentiamo sua figlia Benedetta Tobagi al microfono di Adriana Fracchia. L'originalità di questa mostra sta nel tentativo di cercare di riavvicinare soprattutto i giovani a questa memoria, appunto, spesso negletta e spesso difficile, attraverso un linguaggio nuovo, perché il concept di questa mostra è nato dall'incontro tra alcuni giovani architetti e designer e l'esperienza vissuta delle vittime del terrorismo, per cui le domande senza risposte, le emozioni di chi ha avuto delle vite spezzate diventano un ponte che porta a delle domande e a un percorso di conoscenza. Una cosa molto bella è stata che questo è il secondo allestimento di questa mostra, che ha avuto una prima edizione al Museo di Storia Contemporanea del Comune, e la Fondazione Perini ha potuto riallestire questa mostra su richiesta di insegnanti dell'Istituto Leone XIII. Hanno visto la mostra con i loro ragazzi, sono rimasti fortemente impressionati e hanno spinto perché ci fosse un nuovo allestimento, nuovi incontri, iniziative. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio e Alessandra Tedesco in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Prossimo GR alle 15, GR Extra Large torna domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.